init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood, direbbe qualcuno di poco arguto, 97.8, Radio Sandona 102.2, è italiano, per cui la pronuncia resta quella. Le nostre due emittenti preferite, anche perché sono le uniche che ci trasmettono e hanno la buona voglia di farlo. Molto probabilmente l'ASL gli passa qualcosa periodicamente. Siamo un inserimento del progetto Minori, no, Minorati e basta, che Minori. Esatto, il famoso progetto regionale 6. Sei un minore. Esatto. Minorato, bene, Alvise Favotto, questa è la tua voce, ciao. Buonasera Lele e ben ritrovati su questa intrigante Music for Youth che come sempre ci regalerà delle grosse soddisfazioni, soprattutto nella prossima ora, non tanto per noi ma per l'ospite della serata. Per le ai porci, come si suol dire, l'ospite della serata è il magister Strifu. Ciao Strifu. Ciao. E bentornato su questi microfoni, tra l'altro. Grazie, sì. Perché? Perché Strifu? Perché intanto è un uomo piacente. Sì, a noi piace veramente tanto. E perché è il nostro, diciamo, campione del sapere della serata. Eh sì, heavyweight champion. Eh sì, e the winner is Strifu. In pratica, come è già stato chi fatto, ci ascolta dovrebbe sapere. Figurati, vabbè. E quindi questo si restringe ai nostri parenti stretti. Allora, abbiamo già fatto una puntata che si occupava specificatamente di un'etichetta, quindi una puntata monografica, se vogliamo fare i saputi, e quella volta era venuto il nostro amico Massimo, che salutiamo tantissimo. Per e l'etichetta Tao Cheng Go. Questa sera cambiamo vistosamente genere, ci occupiamo di un'altra etichetta, di cui ovviamente noi ci professiamo ignoranti come capre, ma Strifu ne sa tantissimo. L'etichetta in questione è Mowox. Esattamente, un'etichetta nata nel 92 da James Lavelle, è un ragazzo inglese che con la liquidazione ha aperto questa etichetta qui. Perché? Cioè, no. Io e te con la liquidazione cosa faremo? Ma la domanda prima arriva è: avremo una liquidazione? Ovviamente sì. Un TFR così? TFR magari meno, però anche noi potremmo avere una nostra liquidazione, nel senso di liquidi. Cioè, proprio che li perderemo dal esatto, corpo nella notte. È presente queste grosse flebo. Ascolta, che si palesano. Facciamola finita, no, e cominciamo a parlare di cose serie, perché la puntata monografica era venuta bene quella volta, quindi gli esperimenti si bissano e sicuramente Strifu ci darà una grossa mano. Ci provo. Tu hai mai pensato di aprire un'etichetta? Soprattutto lui, questo Lavelle, nel senso di Lavello, perché l'ha fatta? Penso perché sia un amante della musica e non gli piaceva il lavoro precedente che faceva. Ha aperto questa etichetta e il suo interesse principale era quello di pubblicare tantissimi vinili, quasi esclusivamente vinili di diversi generi musicali, non uno solo, anche se si può identificare con un certo tipo di hip hop, il genere musicale in linea di massima della Mowox. Si pronuncia Mowox, tra l'altro. Ma e su questo scenderà un alone di mistero. Mowox. Visto che siamo qui in tre. Avevo quattro in inglese. Visto che siamo qui in tre e visto che tanto nessuno ci ascolta, si fa che ognuno lo pronuncia come vuole. Ok. E a questo punto io scelgo possiamo Mowox. Tu scegli, non lo so. Tu scegli dalle stelle. Del cielo. A questo punto, di che cosa si occupa l'etichetta? Si parlava di trip hop. Sì, da in media è venuto fuori questo termine per etichettare questa etichetta. Scusate il doppio. Essenzialmente trip hop, però è una definizione che al fondatore stesso, James Lavelle, e tutti i collaboratori non piace molto. Loro preferiscono chiamarla un'etichetta di avant-garde hip hop. Sta chip. Beh, per noi che non ne capiamo niente. Hip hop astratto. Diciamo hip hop astratto. Difatti, su tutte le copertine si leggono messaggi tipo: questa è l'espressione musicale di un'emozione, hip hop con l'anima o cose simili. Tu confermi? Confermo. Perché sei un intenditore dell'etichetta e anche un collezionatore di CD. Sì, diciamo di LP di vinili. Ho diversi vinili di questa etichetta, anche i CD, perché sono più facilmente reperibili, grazie. Però loro hanno sempre voluto parlo al plurale, lui ha sempre voluto pubblicare vinili 7 pollici, 12 pollici. Dopo, chiaramente, per il mercato e soprattutto con il successo che hanno avuto con il tempo, si sono dovuti adattare e soprattutto pubblicare molti CD. Beh, andiamo un po' a conoscere chi c'è in questa batteria di galline chiamata Moowoox. Questo bel Puner o Moowoox. Beh, l'artista di spicco che possiamo, che il primo che ci viene in mente, senza ombra di dubbio, DJ Shadow. La punta dell'iceberg. Assolutamente. E di qui l'aneddoto, tra l'altro, ne parlavamo prima in saletta, prima di registrare. Che cosa hai fatto tu un bel giorno per un CD di DJ Shadow? Anzi, per un per vinile. Un vinile, diciamo, per una canzone che ascolteremo, Organ Donor. Sono andato a Londra, era il 97. Sono andato a Londra lunedì mattina con un volo Ryanair, gentilmente Ryanair, che io pronuncio con la U. Con la U, ottimo, tutto con la U. Ovviamente low cost, uno dei primi low cost. Infatti, hai capito, 97, sì, poi ho detto, deve essere anche pagato sto volo. Niente, sono partito la mattina, sono arrivato a Londra a Soho e alla sera ero qui all'ex Guernica a mettere i vari dischi che ho preso. Tra questi, il motivo per cui ero andato, ovvero il vinile in edizione limitata di Organ Donor, solo 500 copie esistenti, un 7 pollici. Domanda, è estratto da Introducing? Assolutamente sì. Ecco, perché? Perché è uno degli album più influenti, almeno è stato catalogato così da rinomate riviste specializzate, dei quali non facciamo il nome, anche perché se me li chiedete io sparo nomi a caso che cominciano per U. Comunque, Introducing è stato catalogato come uno, anzi è il primo LP CD prodotto interamente su campionamenti, sì. Solo su campionamenti. E anche il suo lavoro d'esordio, vero? Pare di sì, forse, o forse c'è qualche singolo, c'è qualche singolo EP già prodotto in precedenza, a quanto mi sono documentato, cioè poco. Potresti quindi avere ragione, sì, e ci teniamo al beneficio del dubbio. No, ho qualche ricordo anch'io, se non sbaglio era il 95, What Does Your Soul Like, che era uno dei primi singoli che produceva DJ Shadow. C'era un connubio incredibile di blues, jazz e ovviamente hip hop. Andiamo ad ascoltarci quindi DJ Shadow. E questa è Organ Donor sui 97.8 di Radio Sherv. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. the sound has so much body. Pensare che per produrre questo bel pezzettino hanno usato solo una batteria elettronica a 12 bit, una coppia, due giradischi e un Pro Tools che è stato prestato da uno dei primi utilizzatori del Pro Tools stesso, che è Dandy Automator Nakamura. Sto qua, tra l'altro, poi non è finito a fare porcate con i Linkin Park. Dandy Automator, sì. Può essere, può sì. Che ha remixato... Sì, sì, ricordate Mr. Dabolina? Sì, lui. No, io non dico, è io sempre dico di sempre lui. È lui che si reincarna in 100.000 forme. Comunque, ottimo pezzo questo organo. No, non sembra neanche sia stato prodotto da soli campionamenti. Tra l'altro, che cosa si diceva a Favotto di tutto questo packaging che sta, che ruota attorno a prodottini Muwax? Come ci diceva giustamente Strifu un attimo fa, ossia prima della canzone, Muwax si occupa tantissimo e con precisione maniacale del packaging dei prodotti che sforna. Ossia, si occupa di vinili, si occupa anche di CD, ma cura tantissimo quello che è il prodotto finito. Quindi non solo musica di altissima qualità, ma anche dei gran pezzettini di cartone che potete tenere con le vostre agili manine. Molto probabilmente, perché James Lavelle è stato un writer, è tuttora un writer, di conseguenza ama l'arte, gli piacciono tantissimo queste forme d'espressione. Tra l'altro, a quanto pare, uno dei produttori degli artwork vari di Muwax, questa è la pronuncia che sta da questa parte, non mi ricordo più le vostre, ma poi le scopriremo di nuovo, è anche uno dei collaboratori di Massive Attack. Sì, 3D. Apro e chiudo. 3D. Non è il più famoso dell'etichetta, perché di sicuro è Futura 2000, un writer newyorkese, writer è limitativo, un artista newyorkese attivo da più di 20 anni. Domanda, continuano a produrre artwork in questa maniera o si sono più standardizzati? Secondo me si sono un po' standardizzati, però diciamo la verità, negli ultimi 7-8 anni non ho acquistato molti CD, molti LP della Muwax. Anche se il catalogo continua ad essere prolifico, a quanto pare, al contrario della Touch & Go Records, che aveva chiuso i battenti, anzi ha chiuso i battenti per un bel periodo ed è tuttora ferma. Sebbene ci siano voci, adesso io non è che voglio fare l'uccellaccio, chi è che alimenta quello qua? Che viene qui tipo Barbagianni a guffare. È risaputo che già nel attorno agli anni 95, 96, 97, adesso non è che potete pretendere che sono preciso, un pezzettino di Mowox, o come la chiamiamo, è stato ceduto a una succursale di una nota major di cui non farò il nome, ma più di recente si sta contrattando il futuro di Mowox, e al momento non ci sono produzioni, almeno nel 2010-11 non ci sono produzioni in cantiere. Siamo un po' in stallo. Ma chi è che mette siamo in giro Pessotto al balcone queste voci, signorini sorrisi e canzoni? che dice ste porcate, eh? A me dispiacerebbe che... no, un po', e poi la fonte tutti, voglio dire, la fonte di ispirazione per Strifum viene a mancare, cioè io che altre puntate faccio? Sta piangendo. Sono con il morto in casa, come si suol dire. Comunque, passiamo al secondo pezzo in selezione questa sera, e si parla di certe parole che nascono, lyrics born. Esatto, di dei certi lyrics born, perché sì, si tratta di un collettivo. Da dove prendiamo il pezzo innanzitutto? Da una buona compilation, punto di domanda. Sì, la compilation adesso non mi viene in mente il nome, mi verrà in mente, spero, entro la fine. Perché c'è un po' di casino attorno a questo, che poi ha cambiato nome in progetto Quannum. Diciamo sì, non è che abbiano cambiato nome, diciamo che, come dicevo prima, la Mowox è più che altro una fucina di artisti, e molti collaborano tra di loro, e è stato un divenire. Nel senso che nuove conoscenze crescevano, molta gente entrava, usciva. Lo stesso Shadow, verso l'inizio degli anni 2000, ha decisamente limitato le collaborazioni con James Lavette. I Lyrics Born sono, se non sbaglio, tre rapper con moltissime collaborazioni. Mi ricordo i Jurassic 5, mi ricordo Beastie Boys, così, sai, sì, gente che raccati qua sotto il portoncino. Poi lo stesso Qbert, mi ricordo il Mago Silvan, hai capito? Loro hanno prodotto un album, era il 1999, Quantum Spectrum, almeno così citano le note che ho sotto gli occhi, e da quell'album, o da quella compilation, pseudo compilation, abbiamo estratto I Change My Mind. Strifu ha estratto perché no, non millantiamo conoscenze, sì, che esatto, io e Alfavoto non abbiamo. Strifu ha costruito praticamente da sé questa puntata, e noi lo ringraziamo con I Change My Mind del progetto Quannum, o conosciuto ai più come Lyrics Born. But we live and learn what you did in turn. Make me never ever settle for less. deserving. Once you mature, girl, you always be second best. I changed my mind, yeah, I changed my mind. I changed my mind, I changed my mind, yeah, I changed my mind. Hey, well, I really can't say I completely blame my naivete, cause it was situations in retrospect where the things you say would shift direction when put into action. But I just let it whiz on by. People say hell be is going around, and I flip on them, say that's not right. Now I see my shit's not tight. It really pains me to see things change, but your limitations would have held me back. The things you say try to underrate me, they were just a reflection of your self-respect. But now I let it whiz on by. You can't tell me how he can't fly. Kiss my wings, you can hypnotize me. Hear the M singer singing this bye-bye. I changed my mind. Questi erano i Lyrics Born, questi sono i 102.2 di Radio Sandonai, 97.8 di Sherwood. Stiamo parlando in questo salottino con i nostri biscottini e il nostro tè con del latte dentro di Mowoks assieme a Strifu, che ci sta spiegando e ci fa, sta facendo soprattutto sentire i vari generi musicali che l'etichetta ci alterna. Perché? Siamo partiti con Shadow e abbiamo un notevole contributo in termini di campionamento elettronica, eccetera. È stata una buona spinta sul sellino della nostra bici. Esatto, e pensa che il sellino non c'era, quindi immagina alla bersagliera. Immagina l'allegria. A quel punto siamo passati a Lyrics Born, molto più funkeggianti. Sicuramente funk rap. La caratteristica della Mowoks è l'ecletticità. Diciamo che in 15 anni più che l'ho seguita molto, quindi da metà 90, ha abbracciato tantissimi generi questa etichetta, passando dal rock al funk al pop all'avanguardia, jazz anche, al jazz, se vogliamo. Assolutamente. Diceva nel fuori onda, caro il mio Lele, che a parte questa, diciamo, questo cura per il vinile e per tutto quello che ruota intorno al prodotto disco, ossia confezione piuttosto che grafica, eccetera eccetera, Mowoks si occupa anche di abbigliamento in maniera, diciamo, underground un pochetto. Sì, tendono a vendere molte cose in edizione limitata tramite canali tipo internet concerti. Non fanno produzione di massa, anche se molto spesso si appoggiano dei marchi già conosciuti, però fanno delle cose curandone al meglio. E quindi abbiamo anche una Nike Ankle. Esattamente, sì. Ecco, e questo sorriso che voi non vedete è il sorriso tipico di chi calza una Nike Ankle. mi sembrava giusto venire insomma, anche perché sì, sei qua nello studio degli intellettuali con, con un po' di pubblico che ti segue accomodato sulle sedioline, no? Comunque si parlava di marchi, di brand, e io parlo, cedo la parola a Strifu, visto che qualcosa saprà del quarto Beastie Boys, di Money Mark, che è sì, per l'appunto il quarto Beastie Boys, ed è l'artista che ora stiamo per introdurre, che ha fatto anche qualcosa per conto suo. Sì, questo è sicuramente un progetto che non ha molto da spartire con un certo tipo di musica che fanno i Beastie Boys. Anche questo, come molti prodotti della Movax, è un prodotto molto eclettico. Diciamo che essenzialmente gira attorno al rock, al funk e a qualche sonorità più jazz. Tra l'altro, questo Beastie Boys, il quarto, ha dato una mano per le prime produzioni, poi ha deciso di andarsene, è riuscito a ha tirato su due album, questo dal quale abbiamo estratto questo pezzo si chiama Push the Button. Come i Chemical Brothers, esatto, che però non sono parte di Muvox. Che si può dire di questo Money Mark? Polivalente anche lui comunque. Lui entrava in uno stato anarchico per poi uscirne come i Beastie Boys? È la domanda che un po' tutti ci facciamo qui dentro. In realtà, da quello che so, lui collabora solo, diciamo, molto in principio con i Beastie Boys, e li abbandona sul più bello. Come i cani in autostrada. Esattamente. Durante la bella stagione, quando potresti portarti in spiaggia la bestia. Esatto. La signora, la bestia, se la deve tenere in macchina, no, la molla in autostrada. Esatto. Money Mark però lo fa da sé, ossia il sedile che si autoespelle. Che meraviglia. Nel luglio praticamente dei Beastie Boys, questi sono già pronti con i loro asciugamani, pinne, fucili e occhiali. Money Mark decide di andarsene. Tra l'altro è un ragazzino dotato, perché è un polistrumentista, una cosa che io non sapevo. Pensavo dotato in altri campi, ti stavo già chiedendo perché lo sai. No, ma infatti ti stavo dicendo, è un polistrumentista nel senso che suona estremamente bene la tromba. A questo punto io... Hai detto collaboratore? E ti dico con chi è stato collaboratore, con Beck, Blacklicious, una conoscenza di Strifu, DJ Hurricane, Moby, il tuo amato Moby. Sì, sì, infatti era... ci stavo arrivando. Ma soprattutto, Ocho, Yoko Ono. E io con questo direi che posso far partire la musica, no? Direi di sì. Ha rovinato una band, dobbiamo anche dedicargli del minutaggio radio, ma siamo impazziti. Questa è Rock in the Rain di Money Mark. Thank you. E rientriamo in studio, questo era il quarto Beastie Boys, Money Mark. Il quarto Beastie Boys che ci riporta a parlare di Movox. Tra l'altro, allora, Movox, riassumiamo i concetti fondamentali di questa cosa. Ecletticità musicale, si spazia da elettronica, funk, jazz, e chi più ne ha più ne metta. Pop, rock, cantautorale. Beh, sì, un po' si è sentito, no, magari non cantautorale, perché non siamo stati attenti ai testi, stavamo parlando degli affaracci nostri. In questo momento a pausa musicale, diceva Favotto, ricapitolando, molta attenzione per il packaging e l'artwork e tutto quello che ruota attorno al prodotto finale che finisce in mano all'ascoltatore che si vuole andare a comprare il pezzo pregiato, vuoi trasferendosi a Londra in giornata, vuoi magari ordinandoselo più comodamente se sei un poltrone come me da internet. Adesso sì, 10 anni fa era un po' più difficile. Era un po' più complicato, non c'erano ancora il brand e le etichette online del quale acquistare gli online store. Chi c'è che fa parte dell'etichetta Mowax, giusto per sottolineare l'ecletticità favottiana che è stata ora sottolineata? Una band che si chiama South, e che tu dici, la ascolti e fai, ma questi qui stanno sud, siete voi dal sud, siete parte della Mowax? Non mi par vero, è il classico commentino che arriva da uno come me, cresciuto a Bristol vicino i Docks. Sì, sì, esatto, proprio non mi par vero. No, i South sì, hanno un diciamo un sound molto che si discosta molto rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora e rispetto anche a quello che ascolteremo in un certo senso. Partono molto elettronici. Il loro mentore, a quanto pare, ci siamo documentati, è Ian Brown, l'ex degli Stone Roses e poi con una prolifica carriera per gli affaracci suoi prodotti da James Lavello, il famoso fondatore Mowax, Giacomo Lavandino che ci sta tanto a cuore, che gioca con noi ai campetti il sabato pomeriggio. Poi non abbiamo ancora detto chi è James Lavello, a parte, vabbè, ora, sì, ha fondato questa Mowax. Ti sembra le domande da fare a me? Cioè. Sì, infatti, ma io ho qua Strifu, mica lo chiedo a te. Chi è James Lavella, a parte essere il fondatore di Mowax? Beh, come dicevo prima, è un writer, un artista, è stato un writer, un artista. Io ho avuto la fortuna di vederlo a Roma una decina d'anni fa, come in un DJ set. Ma che faccia c'ha? Che connotati c'ha? È carino? Un uomo piacente. Diciamo di sì, abbastanza. Veramente vuoi sapere? No, pensavo che ti interessasse. Programma dal basso contenuto, ne stavo rimpinguando con altrettanto poco. Come writer, come lo vedi? Perché cioè, tu hai della conoscenza specifica da mettere sul tavolo qua. Beh, le cose che ho visto che ha fatto lui erano molto belle. E poi sta a testimoniare la sua bravura, credo, la direzione artistica del packaging di tutti, sì, i vari LP, CD usciti per la Mowax. Vedete? È esaustivo quest'uomo. Cioè non c'è nulla. Neanche stanco, sta prendendo fiato. Per cui direi di farlo respirare. Intanto ci ascoltiamo Paint the Silence. Questi sono i South. Thank you. Questa era Paint the Silence dei South, Music for Youth, RSD 102.2, Radio Sherwood, 97.800. Questa serata è uno speciale Muwax o Muwax, c'è una diatriba sulle pronunce, ce la risolveremo dopo a scazzottate quando avremo finito di registrare. Strifu vince di sicuro. Sì, Strifu vince, secco, mi tiro un papinome, tanta su pa' un muro e finisco dall'altra parte del condominio. Alvise Favotto, ti vorrei trovare un altro conduttore, ma sicuramente pescherai meglio di me, perché sappi che sei caduto in basso, anche se non te ne sei ancora reso conto, dopo quasi un anno. Bentornati, e si parla di Andrea Parker. Palla al volo a te, Favotto, segna la tedesca, 7 punti. Allora, Andrea Parker è un artista inglese, si occupa prevalentemente di elettronica, ha registrato un paio di cose con Muvox, dopodiché se n'è andata e, avendo fatto fagotto, ha creato una sua etichetta e gode di notevoli collaborazioni. Ha fatto fagotto, ma suona il fagotto? No, suona il violoncello, ossia, io mi immagino che abbia quelle infanzie difficili in cui i tuoi genitori ti obbligano a imparare uno strumento, lei impara il violoncello. Dopodiché, se la prende un po', impara qualcosa di elettronica, elabora questo disco che si chiama Kiss My Harp, e voi dite baciami l'arpa. Che pensavo le cioppe, come cantava Herman Medrano in tempi non sospetti. Esatto, baciami l'arpa avrebbe anche un qualcosa a sfondo erotico, ma in realtà harp fa riferimento a una nota marca di sintetizzatori. Bravo, è vero. Vedo che ti sei informato bene, è stata una tua lettura da bagno. Sì, perché ne ho trovato. Perché in Inghilterra, nel momento in cui ero lì, ha fatto un notevole successo. Ha suonato in giro un po' in tutta l'isola, e mi è capitato anche di sentirla. Tu, Strifo, vuoi aggiungere qualcosa? Puoi anche dire un gran tocco di gnocca e dopo pezzo. È una bellissima ragazza. Sì, è vero. Con una voce suadente. Portatela qua prima che passi per Arcole, che la spediamo, la sposiamo subito. Un matrimonio civile, vuoi che non riusciamo a girarcelo? Tanto ad Arcole ne avrebbero comunque altre 27. Beh, direi di sì. Andrea Parker, Some Other Level. Non abbiamo mica tutti quei soldi noi. We'll be right back. Some Other Level di Andrea Parker. Questi erano gli attualissimi suoni Mowax, targati 1998. Se ne discuteva a microfoni abbassati perché sembra proprio una musica attuale, cioè non prodotta un decennio, anzi di più, 12 anni fa, perché insomma sono i classici pezzi che si spendono ora. Il classico discorso un po' serio del fuori onda era sentitevi mai farli in diretta, farli, sempre da smentegarsi. Era, cioè, sentitevi un po' di dubstep adesso, prendetevi questa, alzate un po' le velocità e più o meno siamo lì. Passiamo la palla a chi? Ha un ragazzo che si chiama Michael Hampton, viene da Orlando, Florida, ed è uno dei massimi esponenti della Miami Bass. Esattamente. E la parola va a Strifu. Esattamente. DJ Magic Mike, come dice il nome stesso, è un DJ nonché produttore. È appunto uno dei capostipiti del Miami Bass, che non è altro che l'evoluzione dell'electro funk creato da Africa Bambaata. Esattamente. Adesso potremmo, non lo so, potremmo paragonarlo della musica un Dizzy Rascal, qualche cosa del genere, che fanno essenzialmente liriche da ghetto con una base house, possiamo dire. Adesso non è esattamente gente che vive di rendita sulle spalle dei giganti degli altri, tra cui per l'appunto Magic Mike. Favotto, tu vuoi dire qualcosa? Sei contento del fatto che il pezzo si chiami MMS? Sì, esatto. Immaginavo, perché ti ho letto nel pensiero. Perché comunque c'è un richiamo all'alimentazione, che è un tema tipico in quanto bisogno primario. A questo punto, no, io volevo dire che ringrazio un sacco Strifu per avermi fatto conoscere Magic Mike. Perché? Perché in sostanza io avevo perfino un remix di quest'uomo, e i pezzi, anche se cercati in internet, almeno o siete molto più bravi di me, e è assolutamente così, oppure sono difficilissimi da trovare. Lui infatti ha dovuto pescare un'edizione targata Giappone, DJ Magic Mike The Journey Era of Bass Part 1. Questa è la traccia 2 di questa compilation in edizione importata. Grazie Strifu per avercela portata qua, figurati, in studi di San Donà, che viaggio che si è fatta, i chilometri, e guarda chi è finita in mano. Sì, esatto, cioè, pensa, tu arrivi dal Giappone e finisci qua. Poi ti chiedi perché la Mowax ha ristretto un po' il catalogo, vedi un po' te, questa è MMS number one. Magic Mike, questa era MMS number one con Strifu che mi fa no, io devo fare i CD, cioè metterli su, non parlare, ma dai Strifu, guarda che è andata bene, sì, è andato ottimamente, soprattutto mosso. Hai acculturato queste due menti obnubilate dalla nebbia alla Valpadana, ossia sì, quella mia di Avvisa e Favotto. Sì, sì, tra l'altro guarda, tu hai davanti due grossi punti di domanda. Ci dicevi tra l'altro che... il magico Michele qui, cioè, non viene stimato nel suo, però che cosa... Però lui, più in generale tutto il Miami Bass, è un genere che sì, è sempre rimasto molto underground, però ha avuto un impatto pazzesco per lo sviluppo e la crescita della drum and bass, per esempio. Su questo io adesso andrei a presentare quello che è, assieme probabilmente a DJ Shadow, uno dei pezzi forti di Mowoks, che è Uncle, il famoso zio. Quello chi che non ha uno zio? Mowoks ce ne ha uno e a quanto pare fa anche le cose per bene, come il prosciutto della Rovagnati, o forse era un'altra pubblicità e non me la ricordo più. Era la Locatelli? Thomas, quello che giocava col Siena. Strifu, confermi, tu sei anche mezzo esperto di calcio. No. Dai, forse basket un po' di più. Ah sì? Però sei juventino. Vedi che quello me lo ricordo bene. Si parlava di Uncle, lo zio che tutti hanno in casa. E quello zio, quello della Mowax, ha fatto le cose per bene, come si diceva, subito con il primo album, perché è salito nella UK Charts in quarta posizione immediatamente subito, con il suo album che si chiama Science Fiction 1998. Si collaborava con un bel po' di featuring, ricordiamo Richard Ashcroft dei Verve in piena ascesa con l'album Urban Hymns, c'era un povero Tom York, chiamalo povero, un Bentley Drown Boy che è dietro le nostre spalle con il poster, che ha collaborato con una canzone che si chiama Nursery Rhyme, che è la 7 di Science Fiction, e altri featuring Mike che... Lee dei Beastie Boys. Ecco, e altri che non ci ricordiamo, cioè, che facciamo finta di ricordare, ma non ve li diciamo. Ascoltatevi l'album e li scoprirete da voi. Vuoi dire qualcosa su Uncle? Beh, è un album importantissimo per me. So che ha avuto circa 4 anni di... per il suo completamento di incubazione, esattamente. Ci ha messo un po', alla fine era un buon prodotto. E è una collaborazione con DJ Shadow. Anche perché poi questo è il secondo, in realtà, lavoro fatto da Uncle, perché prima lui nel 94 realizza già un EP o un qualcosa di cui ora non so dirvi, in franchezza, non lo so, però ho questa cosa a casa di Uncle nel 94 che a me piace molto e non so neanche dirvi come si chiama, però cercatela e vedrete che è bella. Che questo è il pezzo di chiusura che abbiamo scelto per la puntata monografica sull'etichetta Mowax. Speriamo di avervi acculturato, insomma. Bene. Un Grandmaster Strifu che ci ha... noi ci sentiamo traghettato. Ora sappiamo un bel po' sulla Touch & Go Records e soprattutto sappiamo un bel po' da stasera della Mowax. Sì, e vi consigliamo di andarvi a sentire tutti, anche tutti gli artisti che non siamo riusciti a mettervi stasera, e ce n'è veramente un'infinità, partire da Black Licious, passando per DJ Crash. Perfino gli Air sono partiti da Mowax. Gli Air hanno un lavoro nel 96 con Mowax, per cui calorosi suggerimenti di andarvi, abbandonate YouPorn, scegliete Mowax. E questi sono i nostri saluti in Lonely Soul di Uncle con il featuring Richard Ekstoff. Ciao Strifu, grazie tanto. Ciao. Ci sentiamo. Alla prossima settimana. God knows you lonely souls. God knows you lonely souls. There's a time and a place to let your mind drift and get out. believe there's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and